Focus Economia. Le 17, 6 minuti e 39 secondi. Buonasera, gentili ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti all'ultima puntata di Focus Economia dell'anno. Focus Economia naturalmente torna lunedì e con Deborah Rosciani. Di cosa parleremo oggi? Faremo naturalmente anche un bilancio dell'anno, non solo di Piazza Affari, ma più in generale dei mercati, anche dell'andamento dei titoli di Stato soprattutto, che sono quelli che poi hanno condizionato un po' tutti i mercati quest'anno, e vedremo quali possono essere le prospettive per il 2012. In apertura però ci occuperemo di due temi relativi all'agenda di governo e al fisco, ossia la riforma del catasto, della quale tanto si sta discutendo in queste ore, soprattutto il calcolo naturalmente per quanto riguarda la misurazione di quante tasse bisognerà pagare, di quanta IMU bisognerà pagare, e ci occuperemo anche dei dati che sono stati forniti oggi dalla cosiddetta commissione sull'erosione, che è una delle commissioni che dovevano servire a preparare il lavoro per la delega fiscale, per la riforma fiscale. E da questo tavolo sull'erosione che cosa è emerso? Che tra sconti, agevolazioni, deduzioni, detrazioni si contano 720 voci. Sono quelle 720 voci che subiranno un taglio lineare in sostanza se la delega fiscale non verrà approvata entro settembre. Vedremo anche di scavare, per quanto possibile con il tempo limitato che abbiamo, tra queste voci e insomma capire se c'è anche qualche paradosso, come probabilmente c'è, visto che si parla di appunto 720 voci. In una giornata, quella di oggi, che vede i mercati positivi, Piazza Affari guadagna mezzo punto percentuale sul FTSE MIB e altrettanto sul FTSE All Share, con Francoforte che ha già chiuso il rialzo dello 0,85%, Francoforte ha chiuso a metà giornata, così come Londra che ha guadagnato lo 0,10%, e l'America lievemente negativa, meno 0,17% sul Dow Jones, meno 0,03% sul Nasdaq, meno 0,08% sullo Standard & Poor's 500. Questo il quadro, le notizie in breve di oggi. E che poi non vi abbiamo aggiornato sull'altra questione che teniamo costantemente sotto controllo, ossia lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi a 10 anni, ossia la differenza di rendimento, è a 525 punti in questo momento, mentre il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni italiani è al 7,07%. Non vi abbiamo nemmeno detto, ma tanto ormai lo sapete, che il numero per intervenire in diretta via SMS è il 349-238-6666. Iniziamo dal petrolio come sempre, un'apertura in calo a New York a $98,95 al barile, nel frattempo però la benzina ritocca il record. Ieri avevamo detto era a 1,722, siamo a 1,724, 1,724 al litro. Mentre l'associazione dei consumatori aderenti a questa sigla che si chiama Casper, nella quale sono dentro ADOC, Codacons, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, dicono 2 giorni di sciopero della benzina per protestare contro i rincari. Il 5 e il 6 gennaio i cittadini italiani sono invitati ad astenersi dal fare rifornimento di benzina e gasolio. Intanto da gennaio aumenta l'accisa sull'energia elettrica a 0,0227 euro a kilowattora per le abitazioni, a seguito della soppressione delle addizionali comunali e provinciali sulla stessa imposta. Come primo dato di chiusura dell'anno vi possiamo dare quello di Tokyo, il Nikkei mai così in basso dal 1982, in 12 mesi l'indice ha perso il 17,3%, parleremo della chiusura d'anno dei mercati e ne parlerà anche domani il Sole 24 Ore, che traccerà un quadro degli avvenimenti dell'ultimo anno, con un focus ovvio sull'andamento delle borse, sulle dinamiche dello spread dei titoli di Stato e su quello che è accaduto anche a livello di materie prime e mercati valutari. Ancora una volta un'occhiata a quello che succede ai depositi di liquidità ad un giorno fatti dalle banche europee nelle casse della banca centrale. Sono tornati a salire ieri, toccando i 445,7 miliardi contro i 436,6 del giorno prima. Si è sfiorato il record che era in realtà di 4 giorni fa, dei 452 miliardi di euro. Cosa succede? Succede che le banche preferiscono parcheggiare liquidità piuttosto che prendere il rischio, e la diciamo molto semplicemente, di prestarsela fra loro. Intanto il Fondo Monetario mette in guardia il governo greco. Il peggioramento delle prospettive economiche suggerisce che la Grecia potrebbe non essere in grado di ridurre il proprio debito a livelli sostenibili, anche con un haircut del 50% dei bond. L'haircut è insomma il taglio di quel che è dovuto ai creditori, per dirla molto semplicemente. Questo è quello che riporta il Wall Street Journal. I dati in arrivo dalla Spagna: deficit PIL 2011 sale all'8% invece del 6% previsto dall'esecutivo socialista di Zapatero. Il governo Rajoy ha deciso un aumento temporaneo delle imposte. Vi abbiamo parlato del Wall Street Journal, come avrete sentito anche dai giornali radio poco fa, dal servizio c'è stata una polemica che ha riguardato, che è partita dal Wall Street Journal, che racconta un retroscena nel quale Angela Merkel avrebbe chiamato il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo scorso a ottobre, dicendosi preoccupata del fatto che il premier Silvio Berlusconi non riuscisse a fare le riforme necessarie. Di lì a poco la maggioranza sarebbe venuta meno. Il Quirinale ha smentito. Nel 2012, dati Unioncamere, il valore aggiunto pro capite a prezzi correnti in Italia sarà pari a 23.280 euro, in calo rispetto ai 23.414 di quest'anno. Altri dati, quelli dell'Istat: i prezzi alla produzione a novembre più 4,2% su base annua e più 0,1% su ottobre. Sempre dall'Istat, il rialzo delle retribuzioni nelle grandi imprese. In ottobre la retribuzione lorda per ora lavorata aumenta rispetto al mese precedente del 4,2%. In termini tendenziali l'indice grezzo sale del 4,6%. Si tratta della prima crescita dopo due mesi di segni meno. Bene, dello spread vi abbiamo già detto, sull'asta dei BTP di ieri c'è anche il commento di Moody's, che parla di un'asta deludente che ha spinto al ribasso per il quinto giorno consecutivo l'euro sullo yen fino a toccare i minimi da giugno del 2001. C'è qualche bilancio sui 10 anni dell'euro, anche questo è un argomento che verrà trattato domani sul Sole 24 Ore, qua troviamo quello del Codacons di oggi. In 10 anni, dice il Codacons, perso il 39,7% del potere d'acquisto. E poi ci sono dei dati che insomma ve li forniamo, li ha dati il Codacons, naturalmente vanno presi con le pinze. Più 207,7% di una penna sfera, più 198,7% per un tramezzino, più 159,7% di un cono gelato. Tutto questo dall'introduzione dell'euro. Ora è vero che i prezzi sono aumentati, poi bisogna vedere che penna sfera si prende, dove la si compra, dove si compra il caffè. Insomma, prendiamoli con le pinze. Sempre i consumatori dicono che nel 2012 ne arriva una stangata da 2.100 euro e la Coldiretti ci comunica, buona ultima perché ce l'hanno detto un po' tutti, che va giù la spesa per il cenone, meno 12% a 2,4 miliardi. E ora qualche notizia curiosa. tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Alla crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Il Corriere della Sera scava oggi nel tema degli aeroporti e allora apprendiamo il governatore del Lazio Renata Polverini l'aveva promesso, ogni promessa è un debito, la Regione Lazio con 1.350.000 euro entrerà nel capitale della società Aeroporto di Frosinone, il sogno dare alla città di Frosinone un aeroporto. Considerate che ne abbiamo 51, uno ogni 5.908 km quadrati, densità più che doppia rispetto alla Francia dove gli scali nazionali sono 43. E in questo momento tra l'altro vi comunichiamo che la Calabria, che tra l'altro non è che abbia proprio delle finanze floridissime, punta su Sibari ed è pronta a destinare 30 milioni per realizzare lo scalo. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Alla crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Se ce l'avete con la casta, vediamo, con la cosiddetta casta, vediamo un'occasione per avercela un po' di più, prendendo un bel esempio dall'estero. Riporta il sito web del Telegraph un qualcosa che esce dagli archivi nazionali britannici. È spuntato un documento del 1979 nel quale Margaret Thatcher si lamentava per i costi eccessivi della ristrutturazione della sua residenza ufficiale di Downing Street. Non solo, ma insisteva per pagare di tasca sua le 19 sterline spese per una tavola da stiro. All'epoca furono spese 1836 sterline per rimettere a posto la residenza destinata alla neo premier conservatrice. Un suo assistente annotò a margine che gli sembravano impossibili da credere le 464 sterline spese per la sostituzione dei cuscini e delle lenzuola e le 209 sterline per il nuovo servizio di porcellana. E anzi, la Thatcher appunto a mano che era d'accordo e che avrebbe potuto utilizzare le sue di porcellane. E giusto per chiarire a chi ci scrive al 349-238-6666, non ci meravigliamo degli aumenti che ci sono stati con l'euro. Insomma, viviamo in questo paese anche noi, ecco, come dire, ci confrontiamo ogni giorno con quello che succede. Abbiamo uno stipendio, quindi si va in giro, si compra e si vede che gli aumenti ci sono stati. Invito solamente a prendere con le pinze certi dati. Non sarà un 200%, sarà un 150%. Insomma, semplicemente facciamoci attenzione. Soprattutto quando non vengono diffusi i metodi di calcolo. Dunque, però, passiamo al fisco. Che cosa è successo? Che il Tesoro ha diffuso la relazione finale del tavolo sull'erosione fiscale. Che cosa si vuole intendere con questo termine? In sostanza, molto semplicemente, si parla degli sconti, delle agevolazioni, dei bonus, delle deduzioni, delle detrazioni, che valgono complessivamente oltre 250 miliardi di euro. E in tutto sono la bellezza di 720. Giovanni Parente del Sole 24 Ore ci ha raggiunto in studio. Giovanni, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Ti chiediamo, poi verremo a quello che è l'elemento centrale di tutto questo, perché Questa questione delle deduzioni, delle detrazioni, delle agevolazioni, dei bonus, insomma dell'erosione, della cosiddetta erosione fiscale, è l'elemento fondamentale per tutti i ragionamenti sulla riforma fiscale e sull'innalzamento dell'IVA a partire da ottobre. E però prima io ti chiederei di aiutarci a tirar giù qualche esempio, no? Perché è chiaro che tra 720 agevolazioni qualcosina si potrà razionalizzare, no? È su quello che probabilmente bisogna lavorare nel momento nel quale si parla di riforma fiscale. Hai trovato qualcosa di interessante da sottoporci? Allora, ci sono un bel po' di agevolazioni che sono settoriali, che magari non ce ne vogliono i diretti beneficiari, ma insomma ma riguardano fette abbastanza limitate di contribuenti. Parliamo ad esempio delle detrazioni per i consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario, cioè una legge del 1990 che le prevede. Ci sono alcune imposte insomma che sono relative alla fiscalità finanziaria o delle assicurazioni. Ci sono altre imposte che sono invece relative ad alcune particolari categorie di allevatori o alcune particolari categorie agricole di microsettoriali di aree geografiche, insomma che consorzi di bonifica istituiti anni fa. Questo a fronte invece di una platea altissima di detrazioni e deduzioni che riguardano, diciamo, tutti noi contribuenti. Parliamo di quella più conosciuta, quella sulle spese mediche, oppure per chi acquista la prima casa, che può scontare appunto sia il valore sul valore d'acquisto, sia la possibilità di scontare gli interessi sostenuti per i mutui. Su questo lavoro che è stato fatto, che è uno screening ad amplissimo raggio del tavolo sull'erosione fiscale, come dicevi tu, si gioca la partita della riforma. Un documento enorme, tra l'altro, circa 500 pagine, no? Sono circa 500 pagine, tra l'altro un documento che noi del Sole 24 Ore abbiamo visto crescere nei mesi. Solo nella manovra di luglio erano più o meno la metà le agevolazioni censite. Poi sono aumentate a dismisura negli ultimi mesi perché sono stati adottati criteri diversi. La relazione ha acquisito anche i pareri contrari delle associazioni che hanno partecipato a questo tavolo tecnico. Non tutte sono d'accordo che una certa agevolazione possa essere più o meno tagliabile o più o meno sforbiciabile, e quindi insomma il documento è diventato una sorta di mostro documentale che è stato acquisito e pubblicato oggi sul sito. Naturalmente. E allora che cosa altro emerge, tanto per farvi qualche esempio di che cosa esce fuori a livello più macro di questo da questo documento? Si parla per esempio delle aliquote IVA, quelle ridotte al 4 e al 10%, che comportano insieme quella possiamo definire una perdita di gettito di oltre 40 miliardi di euro. È vero anche che qua dentro per esempio ci sono molti generi alimentari, alcuni beni e servizi come per esempio le mense, le società che fanno la mensa per gli asili nido, sono solo alcuni degli esempi. Nella relazione si parla anche della progressività della tassazione, che riguarda solamente i redditi da lavoro, dice la relazione finale. Si diceva che tutto questo è un po' il cuore di alcuni meccanismi, di alcune grilletti che scatteranno a partire da ottobre, Giovanni. Esattamente. Il cammino della riforma fiscale è stato segnato, cioè è stato scolpito nella pietra, diciamo, nel nostro bilancio pubblico, perché fa parte insomma del cammino che dovrà portare al pareggio di bilancio nel 2013. Quindi se non si farà il riordino di tutte queste agevolazioni, data chiave, segnatevela tutti, il 30 settembre 2012, dal 1 ottobre scatterà un nuovo aumento dell'IVA, un aumento dell'IVA che riguarderà non tutta l'IVA, quindi tu parlavi prima della fascia di beni al 4%, no, questa qui sarà esclusa, quindi almeno i beni alimentari di prima necessità non saranno coinvolti a questo aumento. Ci sarà un nuovo aumento dell'IVA al 21%, parliamoci chiaro, scarpe, vestiario, vini, articoli di elettronica, insomma che sono consumi diffusi. Appena aumentata a settembre, aumenterà anche al 23%, anche in questa fascia sono comprese anche le prestazioni professionali, l'avvocato, il commercialista o da un medico, se si va da un medico privato. E poi aumenterà invece la fascia intermedia, quella del 10%, anche qui l'aumento, il primo aumento sarà del 12%, sarà del 2%, quindi salirà dal 10% al 12%. Questo servirà a coprire, appunto, come dicevamo, un mancato riordino di tutta questa mole di agevolazioni. Naturalmente i tempi sono scanditi, addirittura nella lettera che il governo precedente, il governo Berlusconi, aveva consegnato come lettera di impegno all'Unione Europea, si prometteva che una prima parte di questo cammino della riforma fiscale sarebbe stato completato entro fine gennaio, cioè con un'approvazione della delega, cioè la legge che poi delega il Ministero a riformare tutto, entro fine gennaio. Siamo solo all'esame preliminare, abbiamo fatto solo le audizioni parlamentari, quindi è difficile che quella scadenza venga rispettata. Beh, invece per quanto riguarda il taglio di tutto questo, il famoso taglio lineare del quale si era parlato, Giovanni? Esatto, il taglio lineare è stato scongiurato grazie a quella che è stata chiamata clausola di salvaguardia, in realtà è l'aumento dell'IVA, cioè l'aumento dell'IVA dovrà coprire l'eventuale mancato riassetto dei bonus. Questo è il quadro per quanto riguarda il tavolo sull'erosione, quindi avremo da vedere che cosa succederà nei prossimi mesi. Il lavoro preparatorio è quindi sostanzialmente finito per la riforma fiscale o no? E questo non ancora, manca ancora una relazione. In realtà i tavoli che hanno lavorato erano essenzialmente tre: quello sull'economia sommersa, che era presieduto dal presidente dell'Istat Enrico Giovannini, che ha dato la sua relazione, ha detto questa è l'economia sommersa in Italia, da qui muoviamoci per combattere l'evasione fiscale. C'è questo tavolo che è quello presieduto è stato presieduto da Vieri Ceriani, che attualmente, che poi è diventato sottosegretario al Ministero dell'Economia. E ce n'è un terzo che invece è quello che dovrebbe fare un po' da sintesi al lavoro fatto da Ceriani e i suoi esperti, che riguarda invece le sovrapposizioni delle agevolazioni fiscali a quelle assistenziali, quindi tutte le prestazioni di welfare. Laddove ci sono sovrapposizioni, duplicazioni, questo tavolo dovrebbe indicarle per in qualche modo centrare lo sforbiciabile, il tagliabile e individuare i risparmi per le casse pubbliche. Grazie a Giovanni Parente del Sole 24 Ore per essere stato con noi e per averci chiarito quali sono le implicazioni di questi dati, che sennò presi a freddo non ci avrebbero detto quasi nulla. Grazie a Giovanni Parente del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E noi adesso chiudiamo la parte più strettamente fiscale dicendovi che tra l'altro sono in arrivo oltre un milione, per oltre un milione di contribuenti, più di 900 milioni di rimborsi, compresi quelli chiesi con le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2010 e le restituzioni del canone RAI agli over 75, è quello che comunica l'Agenzia delle Entrate. Il risultato mostra un aumento del 60% dei soggetti rimborsati rispetto al 2010. Chiudiamo la pagina più strettamente fiscale, più generalmente fiscale, entriamo su quella della casa. Ne avete letto tanto in questi giorni, via i vani, arrivano i metri quadri e comunque sia, apparentemente questo cantiere che riguarda la nuova IMU non è chiuso per niente. Giusto una risposta a chi attacca piuttosto energicamente sulla questione dei prezzi a 10 anni dall'introduzione dell'euro. Qua non si sta negando che ci sia stato un forte aumento dei prezzi, io semplicemente invito a diffidare dalle fonti che non indicano i metodi di calcolo, molto semplicemente. Poi magari sarà anche vero che una penna sfera è aumentata del 200%, non lo sto negando, insomma, dico semplicemente facciamoci attenzione, e se no prendiamo tutto per buono. Saverio Fossati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Grazie per averci raggiunto. Allora, ci sembra che sia tutto aperto a questo punto, non proprio tutto, però insomma le cose evidentemente cambieranno parecchio. A che punto siamo? Beh, dal punto di vista del catasto e della casa sono due cose lievemente diverse, nel senso che in questo momento sta per entrare in vigore l'IMU, che sostituisce l'ICI e l'IRPEF sui redditi fondiari ed è stata introdotta in via sperimentale con un incredibile aumento del 60%, mediamente fra il 60 e il 70%, dei moltiplicatori delle rendite catastali, perché la base imponibile di questa imposta dell'IMU ma anche dell'ICI è semplicemente, funziona così: si prende la rendita catastale stabilita nel 92, comunque con le vecchie leggi del 39, e la si moltiplica per un certo valore che fino a poco fa per le abitazioni era 100 e adesso è 160, quindi diciamo è stata fatta un'operazione chirurgica sui moltiplicatori, senza toccare le rendite, senza toccare i meccanismi catastali. Quello che invece si sta per varare e che si è tentato di varare già diciamo da una decina di anni fa, perché i primi vagiti di questa riforma sono del 2001, è una vera e propria riforma del catasto, che attualmente è un meccanismo abbastanza farraginoso, che forse poteva andare bene negli anni 30 quando è stato concepito, mentre invece adesso è del tutto inattuato. Il meccanismo che tuttora è in vigore è questo: allora, per ogni tipo di immobile viene inserito in una certa categoria. Per esempio, per le abitazioni ci sono una decina di categorie, ce ne sono 6 per gli immobili produttivi, 5-6 per gli immobili diciamo a uso pubblico, eccetera, eccetera, ce ne sono moltissimi. All'interno di queste categorie ci sono ulteriormente una serie di classi. Tutto questo cambia oltretutto a seconda dei vari comuni, degli 8.000 comuni d'Italia. Quindi è un meccanismo estremamente complesso. Una volta determinata la categoria e la classe di quell'immobile, si va a individuare qual è la tariffa d'estimo corrispondente, che naturalmente corrisponde a un valore che sarebbe la redditività di quell'immobile, per vano, ma non per metro quadro. Per quanto possa sembrare assurdo, negli anni 30, 40 e 50 si ragionava in termini di stanze per la maggior parte delle tipologie immobiliari, mentre per quelle commerciali si ragionava già allora in termini di metri quadrati. Oh, la rivoluzione in termini molto concreti è, prima di tutto, metri quadrati per tutti, cosa che si può già fare perché il catasto dispone della planimetria di quasi tutte le unità immobiliari d'Italia, che sono state messe a computer, e grazie al fatto che era indicata la scala di tutte si sa abbastanza esattamente quanti metri quadrati sono. Una volta stabilito questo, le categorie saranno molto ridotte, anche le classi saranno molto ridotte, saranno tarate in realtà sulla situazione reale del quartiere in cui si trovano, quindi non più a livello di comune o di macro zona censuaria, a Milano ce ne sono solamente 3, ma proprio di quartiere. Questo renderà possibile individualizzare tantissimo il reale valore dell'immobile, certo. Partire da lì per una nuova tassazione. Ok, chiarissimo, chiarissimo Saverio. Adesso noi ci prendiamo una breve pausa e poi ti voglio portare su un tema, perché c'è chi dice, insomma, va bene, si cambia la tassazione sulla casa, e però prima fate pagare quanti sono? 2 milioni di case fantasma, Saverio? Sì, allora, le case fantasma sono una partita che è stata aperta. No, aspetta, prima abbiamo una pausa, solo il numero, quante sono? Sì, sono circa 2 milioni. Sono circa 2 milioni. Allora, la pausa e poi ne parliamo. Le 17:37 minuti e 6 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia. Ci segnala un ascoltatore: ho appena fatto benzina a Vigevano al solito distributore, 1,733 al litro contro l'1,724 che abbiamo dato in apertura, ma quelli sono i prezzi consigliati dalle compagnie ai gestori, poi i gestori si comportano un po' come credono. Ritorniamo brevemente con Saverio Fossati sul tema delle cosiddette case fantasma, perché si dice, insomma, ci state per dare una mazzata la nuova tassazione sulla casa e con la revisione delle regole per il calcolo della tassazione sulla casa, e però alla fine quelli veramente abusivi, quelli che non esistevano, stanno pagando oppure no? Sì, stanno per pagare, alcuni hanno già cominciato a pagare, perché il meccanismo che è stato cominciato nel 2006, cioè dell'individuazione delle case fantasma, ha prodotto già più di 1.600.000 individuazione di unità immobiliari fantasma, per così dire che non lo sono più. 1.000.000 è stato un adempimento spontaneo, altri 600.000 sono stati individuati direttamente dall'Agenzia del Territorio, che sta lavorando proprio in giro per le campagne, perché più delle volte ovviamente sono fuori dalle città, e almeno altre 400.000 sono attese entro febbraio. Quindi alla fine di tutta l'operazione circa 2.000.000 di case dovrebbero essere guadagnate alla tassazione, ma non forse alla regolarità urbanistica, perché molte di queste case fantasma, che in sostanza erano chiamate così perché risultavano sulle mappe catastali, spesso sono anche case abusive, e quindi rimane questo problema che i comuni probabilmente saranno chiamati a risolvere, o a meno che non facciano finta di nulla, incassando così solamente i soldi dell'IMU e dei futuri aumenti delle rendite. Di multa quanto si ha un'idea di quanto e se dovranno pagare? Allora, la multa è praticamente assente, diciamo così, perché in linea di massima il ritardo che viene ammesso nella denuncia di un'opera finita è di circa 6 mesi. Quindi in molti casi i proprietari hanno dichiarato che avevano ultimato la loro opera da meno di 6 mesi. Quindi di multe, di sanzioni non ci saranno. Sto parlando dal punto di vista catastale. Naturalmente. Dal punto di vista invece IRPEF e ICI ci saranno, perché in molti casi il comune ti dimostrerà che tu l'avevi ultimato, perché c'era l'allacciamento della luce, c'era l'allacciamento del gas, magari un contratto di locazione. Brevemente, Saverio, riesci a darci solamente una cifra di quanto si pensa di incassare da queste case fantasma in termini, come dire, di sanzioni IRPEF, come ci dicevi, e ICI? Beh, sanzioni è veramente difficile ipotizzarlo. Comunque, almeno circa 1 miliardo in più di IMU lo si potrebbe incassare. Quindi, se veramente venissero anche incassate le sanzioni ICI e IRPEF dei 5 anni precedenti di tutte queste case, si arriverebbe a una cifra stratosferica fra i 4 e i 5 miliardi. Però mi sembra molto ipotetica. Molto ipotetica. Grazie dunque a Saverio Fossati del Sole 24 Ore per essere stato con noi e buonasera. E avete anche ragione voi a dire, ma insomma, questi alla fin fine sarebbero da multare e chissà quanti soldi ci faremmo. Ora è il momento della borsa. Paolo Paronetto, Radio Corri, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Fiammata nel finale per Milano. Esattamente, proprio sul finale Piazza Affari accelerato, ha chiuso l'ultima seduta dell'anno con la migliore prestazione tra le borse europee, ha guadagnato l'1,22%, dopo Milano la migliore è Parigi, che ha guadagnato l'1%, tutte le altre sono rialzi inferiori al punto percentuale, si tratta principalmente di rimbalzi tecnici, di una ripresa, di una buona giornata finale del settore industriale, anche se naturalmente ricordiamo che il bilancio dell'intero 2011 rimane pesante, il FTSE MIB ha perso il 25%, quindi un quarto del suo valore rispetto alla fine del 2010. Andamento, come dicevi, trainato dal settore industriale, a testimonianza di tutto ciò vediamo quello che c'è sul listino milanese con Exor più 2,98%, è vero che è una finanziaria ma è quella che controlla Fiat, che guadagna l'1,66%, ebbene anche Finmeccanica più 2,07%, Prismian più 1,80%. Eni invece. Sì, per quanto riguarda l'Eni, il titolo del gruppo ha guadagnato l'1,46%, oggi a sostenere gli ordini di acquisto è stata l'intervista dell'amministratore delegato Paolo Scaroni al Sole 24 Ore. Scaroni si è mostrato positivo sui progetti realizzati dalla società e che pongono le basi per il futuro sviluppo del business del gruppo, e inoltre ha aperto la possibilità di una valorizzazione della partecipata, della controllata Snam Rete Gas. Secondo Scaroni si può immaginare anche un disinvestimento, quindi di fatto una vendita di Snam da parte dell'Eni a patto di poterlo valorizzare al meglio. Questa è un'ipotesi di cui si parla da tempo, naturalmente da un punto di vista del conto economico Eni ne beneficerebbe, perché sarebbe comunque una grossa valorizzazione di un asset importante per il gruppo. La prospettiva non ha scaldato particolarmente Snam, che ha chiuso praticamente sulla parità, più 0,12%. Energetici a due facce, Enel guadagna il 2,14%, mentre invece Enel Green Power scende dello 0,86%, il titolo peggiore sul listino oggi è A2A-2,74%. Sì. in questo caso, secondo gli operatori, si tratta in particolare di realizzi prima della festività di Capodanno. A Durae la salita aveva mostrato un andamento decisamente positivo negli ultimi giorni sulla scia del riassetto Edison, che era stato promosso dagli analisti soprattutto appunto per quanto riguarda gli effetti su A2A, quindi diciamo che parte degli investitori che avevano comprato nei giorni scorsi oggi sono passati all'incasso. Non bene i bancari complessivamente, al di là di Popolare Emilia Romagna che continua a scendere, un meno 0,72%, c'è Unicredit che guadagna appena lo 0,16%, Intesa San Paolo lo 0,15%, qua pesa ancora la questione dei titoli di Stato. Esattamente, Paolo. Tra l'altro sono titoli che fino a proprio a un quarto d'ora dalla fine erano tutti ancora in territorio negativo. C'è stato questo sprint finale che ha riguardato tutto il paniere principale di Piazza Affari e quindi anche questi titoli sono riusciti a superare la parità, anche se appunto hanno segnato performance inferiori a quelle del comparto. Continuano a pesare le incertezze sul debito dell'Eurozona e sui titoli di Stato italiani. Anche oggi lo spread tra BTP e Bund è salito, ha chiuso la giornata 522 punti base dopo aver toccato un massimo a 528, quindi diciamo che il comparto rimane particolarmente sotto osservazione. Bene, un po' meglio Monte dei Paschi più 0,76, UBI Banca più 0,89, di Azimut in realtà sono cose che abbiamo già detto ieri, un più 1,14% dovuto ai dati sulla raccolta che l'hanno spinta su sia ieri che oggi. Invece Premafin. Sì, diciamo che quello di Premafin è stato uno dei temi principali di tutta la seduta. Il titolo ha chiuso la giornata in rialzo del 30,7%, fin dall'avvio è stato sostenuto dall'ipotesi, dall'indiscrezione di stampa su un possibile ingresso di nuovi soci nel capitale della finanziaria attraverso un aumento di capitale di circa 200 milioni che le permetterebbe poi di sottoscrivere quello in vista per la controllata Fondiaria SAI. In particolare si parla di un interesse del fondo Clessidra che di fatto, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe disposto a mettere sul piatto proprio circa 200 milioni da investire in Premafin. Queste prospettive ovviamente iniziano a concretizzare quel rilancio e quella stabilizzazione della galassia Fondiaria SAI, della galassia Ligresti. La famiglia Ligresti risulterebbe diluita da queste operazioni perché non sottoscriverebbe gli aumenti di capitale e quindi vedrebbe ridotta la propria partecipazione. È una prospettiva che naturalmente tutti gli investitori stanno aspettando, quella di questo riassetto, di questo rilancio del gruppo. Anche Fondiaria SAI oggi ne ha beneficiato, il titolo della compagnia è salito del 3,77%. Brevemente Buzzi Unicem, Paolo. Buzzi Unicem si tratta di una ripresa del settore costruzioni che è stato il migliore in tutta Europa, il sottoindice ha guadagnato l'1,9%, arrivano segnali positivi dagli Stati Uniti, ieri c'è stato un dato nettamente migliore delle attese sui compromessi per la vendita di abitazioni, quindi l'immobiliare sembra mostrare segnali di ripresa e quindi i titoli del comparto ne beneficiano. Grazie Paolo Paronetto, Radio Cori Il Sole 24 ore, buonasera. Grazie a voi, buonasera e buon anno. E noi ci ritroveremo subito dopo la viabilità per fare un punto sull'anno di mercati. Le 17:48 minuti e 2 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia. Ancora sul tema dei prezzi a 10 anni dall'euro, splendido racconto, splendido ricordo ci arriva via SMS da un ascoltatore che ci dice: la sera del 30 dicembre 2001 in una trattoria abbiamo pagato 20.000 lire a persona. Il 5 gennaio lo stesso locale ci ha chiesto 20 euro a persona, abbiamo fatto casino, abbiamo chiamato i carabinieri e gli abbiamo lasciato 11 euro a cranio. Bene, anche questi sono ricordi appunto dell'introduzione dell'euro. Noi passiamo a fare un bilancio dell'anno non solo di Piazza Affari, ma un po' dei mercati. Già si diceva poco fa del FTSE MIB, un calo del 25% nel corso di quest'anno, si diceva di Tokyo, il Nikkei mai così in basso a fine anno dall'82, un meno 17%, e però partiamo dai titoli di Stato. In questo momento la chiusura dei rendimenti per i titoli decennali oggi è al 7,09%, a gennaio era al 4,82%. Andrea Ragaini, direttore centrale Private Banking di Banca Carige, amministratore delegato di Banca Cesare Ponti, buonasera. Buonasera, dottore. Allora, inizierei con lei proprio da qua, mi sembra che questi numeri diano abbastanza uno specchio abbastanza chiaro di quello che è avvenuto e poi del perché alla fine anche la borsa abbia reagito in quel modo. Sicuramente l'anno che stiamo per chiudere verrà ricordato come l'anno della crisi dei debiti sovrani, è stato un anno terribile per i debiti sovrani dell'Eurozona, soprattutto periferici ed in particolare proprio per il nostro paese, per l'Italia. Come ricordava lei, il differenziale dall'inizio dell'anno è salito di quasi 3,40 punti, è il più ampio, livello di crescita registrato dai paesi dell'Eurozona. Ricordiamo che la Spagna, che all'inizio dell'anno era messa peggio di noi perché pagava 2,80 punti di differenziale sul Bund tedesco contro 1,80 punti nostro, oggi paga solo 3,36 punti, solo tra virgolette, rispetto al nostro 5,22%. Quindi certamente un anno molto brutto per tutti i titoli del debito pubblico europei e in particolare per il debito pubblico italiano. E questo è evidente, insomma, l'abbiamo visto sulla nostra pelle, abbiamo assistito per questo ad un cambio di governo, in realtà non il solo in Europa, abbiamo assistito a quel che vediamo quotidianamente uscire per quel che riguarda la manovra, quel che abbiamo visto uscire con la manovra esattamente per questi motivi. Posto che naturalmente il gioco è tutto politico, evidentemente, è di poco fa una dichiarazione di Angela Merkel battuta da Radio Core, dice: farò tutto il possibile per rafforzare l'euro, anche se insomma naturalmente finora tutto questo possibile non si è un granché visto. Che cosa si aspetta per l'anno prossimo? Quello che abbiamo visto quest'anno, come veniva detto, è proprio la mancanza di concertazione europea, quindi la mancanza di provvedimenti unitari che dessero un segnale forte ai mercati, di capacità e volontà soprattutto di risolvere a livello collegiale una crisi che era una crisi piccolina, perché non dimentichiamoci che il debito pubblico della Grecia rappresentava il 2% del debito pubblico complessivo europeo, quindi veramente un piccolo di cui del debito. La gestione un po' confusa fin dalle prime battute della crisi. Lei dice che stiamo annegando in un bicchiere d'acqua? Ma sicuramente siamo partiti da un bicchiere d'acqua, dottore, probabilmente il bicchiere d'acqua oggi è diventato una piscina, non è ancora un oceano, ma inizia a essere di dimensioni sicuramente rilevanti, e l'ultimo tentativo dell'8 e 9 dicembre dell'Eurogruppo di porvi un rimedio in modo non del tutto convincente, come ha detto anche ieri il nostro Presidente del Consiglio, ha dimostrato la gravità che sta acquisendo la vicenda e la materia. Certamente il possibile verrà fatto dalla Germania, anche perché ormai i paesi dell'Eurozona, i 17 paesi dell'Eurozona, sono tra loro collegati da vincoli molto forti e difficilmente interrompibili, quindi ci sono delle situazioni che portano dei grandi documenti in caso di abbandono dell'euro a tutti i livelli, sia dei livelli alti che dei livelli più bassi. Una stima recente stimava proprio un costo di uscita dell'euro dall'alto della Germania pari al 30% del PIL tedesco, quindi quasi 800 miliardi di euro. Quindi certamente l'interesse di tutti, dei paesi più deboli. Ma è vero che c'è qualcuno che ci sta lavorando? Come sempre i worst case vengono presi in considerazione dalle direzioni generali, dagli strategist di tutte le aziende. Questo è un esercizio che non è proprio solo dei momenti di crisi, è proprio di tutti i momenti anche di maggiore prosperità. In questi momenti certamente gli esercizi sui casi peggiori che si possono verificare sono esercizi che vengono sviluppati da tanti, ma senza per questo dire che siano poi casi concreti. Sono esercizi di teoria che vengono sviluppati in ogni fase del mercato. In questi casi si evidenziano tanto gli aspetti negativi. Ecco, sì, no, quello che dico non è che nelle fasi favorevoli di mercato si calcolava la possibile uscita dall'euro, la possibile disgregazione dell'euro, no? Immagino. No, certamente no. Nel momento in cui venivano fatte delle pianificazioni, venivano fatte delle ipotesi negative o particolarmente stressate di mercato, in cui c'erano degli elementi negativi, che si chiamassero poi fine dell'euro o elementi di carattere diverso. Oggi la crisi negativa e la tensione negativa può avvenire proprio da una disgregazione dell'area euro, e quindi su questa in effetti qualche riflessione si fa e si sta facendo. Veniamo da una due giorni di aste di titoli di Stato, la prima quella sui semestrali, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, con un dato sostanzialmente positivo, un dimezzamento del rendimento al 3,25% contro il 6,5% dell'asta precedente. Moody's oggi definisce deludente invece l'asta dei BTP di ieri, nella quale i titoli di Stato a 10 anni, BTP a 10 anni, sono stati collocati più o meno a livelli di mercato intorno al 7% o poco sotto, e un pochino meglio sono andate le cose per i triennali. Qual è il suo giudizio? È da una parte positivo e dall'altra un po' meno positivo, luci e ombre come tante parti di quest'anno che abbiamo appena trascorso. Il fatto che la curva breve dei tassi di rendimento, i BOT a 6 mesi per intenderci, stia fortemente scendendo rispetto all'ultima asta è un dato enormemente positivo, porta a una normalizzazione dei tassi sul mercato, la curva dei rendimenti inclinata positivamente con le scadenze lunghe che rendono più delle scadenze brevi e anche sensibilmente più, è un dato virtuoso, è un dato positivo, è un inizio di normalizzazione dei mercati. E questo è un elemento che dobbiamo prendere per quello che è, un elemento positivo. Il fatto che ancora ci sia un bid to cover, quindi una copertura delle aste a lungo termine non particolarmente brillante, poco più dell'1,30 abbiamo visto nell'asta dei titoli decennali di ieri contro 3 volte dei bot a 6 mesi dell'altro giorno, è un elemento non particolarmente positivo, è un po' come quando si va male a scuola, anche se poi si comincia a studiare ci vuole un pochettino di tempo per far capire al professore che poi si è veramente cambiato rotta. Io penso che il mercato stia ragionando in questi termini, la parte breve prende atto di un miglioramento oggettivo della situazione strutturale, non dimentichiamo che l'Italia ha fatto 70 miliardi di euro di manovra in 2 riprese, quindi una manovra veramente importante con dei cambiamenti strutturali fortemente significativi, la parte lunga resta ancora forse un po' dubbiosa per il fatto che l'Italia sia davvero in grado di portare avanti la fase 2 delle riforme che abbiamo sentito ieri molto bene, che riguarda tutta la fase di crescita, che poi si pone al rapporto nel denominatore del nostro debito PIL e quindi ha una valenza assolutamente straordinaria. Quindi luce e ombre, positiva la parte breve, la parte lunga certamente ancora non brillante. Brevissimamente, ritiene che anche l'anno prossimo, immagino che lei ritenga che anche l'anno prossimo la dipendenza delle borse da tutto questo sia strettissima, no? La correlazione ormai è molto stretta, come diceva lei, la correlazione tra mercati e debiti sovrani è straordinariamente alta, siamo vicini a una correlazione 1-1, soprattutto nel settore bancario, ma non solo. Il tema dominante non è più neanche una crisi di carattere finanziario, è la capacità dell'Europa di trovare dei meccanismi che vadano oltre l'unione monetaria, arrivino all'unione fiscale, perché no all'unione politica. Quindi certamente il tema dei debiti sovrani e ancor prima il tema della capacità dell'Europa di trovare un futuro in unione è certamente il tema dominante anche per il 2012. Vedremo cosa succederà in questo 2012 che sta per iniziare. Grazie ad Andrea Ragaini, direttore centrale private banking di Banca Carige, amministratore delegato di Banca Cesare Ponti. Buonasera e buon anno. Grazie a voi, auguri a tutti voi. Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia, appunto l'ultima dell'anno. Un ringraziamento a Barbara Bianchi in redazione, Pietro Lacorte in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Un augurio di buon anno. Focus Economia torna lunedì con Deborah Rosciani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.